Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili. Di Nanni Balestrini, parte tredicesima. La manifestazione parte con il nostro gruppo che sta nelle prime file. Con Talpa, il sindacalista della fabbrica occupata, ci sono dei tamburi e dei campanacci che fanno un rumore d'inferno. Prima passiamo per il paese, tutta la gente fuori, a guardare per le strade, sui marciapiedi, alle finestre. In questo paese non c'è mai stata una manifestazione. Noi lanciamo slogan un po' duri e tutti gli operai e le operaie li riprendono. Subito e si divertono, gridando con un nuovo modo di far la produzione. Sotto le presse, mettiamoci il padrone. Su, su, i prezzi vanno su. Prendiamoci la roba e non paghiamo più. Facciamo tutte le strade del paese. Un pulmino dei carabinieri segue a distanza. Usciti dal centro del paese, ci dirigiamo verso le fabbrichette. Alcune sono chiuse, sapendo della manifestazione e delle intenzioni di fare casino. Circolate la sera prima nei bar e molti operai non si sono presentati al lavoro. Così succede per 3 o 4 fabbrichette. Poi Pepe, che è poco convinto, fa il giro della quarta fabbrica. Vede che dietro sono posteggiate le automobili, che hanno nascosto le automobili e chiuso i cancelli per far credere che la fabbrica era chiusa. Pepe avvisa la prima fila del corteo e in un attimo la voce arriva fino in fondo, dietro fronte, si arriva davanti al cancello. Tutti gridano fuori, crumiri, ruffiani, vigliacchi, un casino d'inferno, con tamburi e campanacci, ma da dentro niente, silenzio. Cotogno con Ortica, Valeriana e gli altri fanno il giro da dietro, salgono sulla cancellata e tirano qualche sassata contro le automobili. Tutti indovinano cosa succederà e Talpa scatta verso il retro, ma alcuni operai lo prendono per le braccia e gli dicono di lasciar fare, che quelli sono facce di merda. Gli operai che erano dentro escono sul piazzale, uno alla volta, spiando prima dal portone di ferro semiaperto. Il più anziano si avvicina alla cancellata, con tutti che gli urlano addosso. Lui parla con il sindacalista, che deve conoscere. Dice che non lo sapeva che c'era sciopero, se no lui lo avrebbe fatto. Si mette d'accordo col sindacalista, usciranno tutti e noi staremo lì per controllare fino alla fine. I crumiri salgono sulle loro automobili e escono mentre tutta la gente fuori dal cancello fa corridoio. Devono per forza andare a passo d'uomo e si vede dalla faccia che hanno paura, con i finestrini alzati e le sicure abbassate. Sputi sui finestrini, qualche calcio sulle fiancate. Le donne sono le più infuriate. Fermano qualche macchina mettendosi davanti e agitando i pugni. Se ne vanno via e noi riprendiamo il corteo, altra fabbrichetta e anche qua altra gente che lavora. Però qua non si sono neanche preoccupati di nascondere le auto. Lo fanno proprio spudoratamente. Gli animi sono accesi, ma quelli appena sentono il casino escono subito. Si giustificano sempre allo stesso modo, dicendo che non sapevano dello sciopero. Si va avanti così, fabbrichetta per fabbrichetta. Alcune sono veramente chiuse, in altre gli operai escono prima che arriviamo. Uno addirittura aspetta il corteo e si mette dentro anche lui. Arriviamo in una fabbrichetta dell'indotto, una di quelle in cui si fa il lavoro della fabbrica occupata, per la quale manifestiamo. Il cancello è aperto, irruzione dentro i reparti. Un piccolo corteo interno, confuso, perché non ci si sta dentro tutti. Sentono rumori e tonfi, il materiale plastico viene rovesciato per terra. Lauro si prende a botte con un crumiro, che non vuole uscire. Vengono divisi quasi subito, poi il crumiro esce premendosi un fazzoletto sul naso da cui cola il sangue. Non facciamo in tempo a spazzolare la palazzina, dove ci sono gli uffici, perché gli impiegati sono già scappati tutti. E riprendiamo il corteo verso un'altra fabbrica dell'indotto, questa un po' più grande delle altre. Ci saranno una trentina di operai, ma non tutti sono al lavoro. Anche lì calci e bastonate alle macchine. Un finestrino va in frantumi. Talpa corre avanti e indietro a calmare gli animi e Cotogno questa volta si incazza e gli dice piantala di fare il pompiere. I cancelli sono chiusi, si fa casino per farli aprire. Dall'ingresso vengono fuori i due padroncini con l'aria da incazzati e per fare un gesto di sicurezza aprono il cancello e si mettono a parlare con Talpa. La gente dietro però preme e fa irruzione. I due padroncini scappano e si fermano davanti alla grande porta a vetri, facendo scudo con il loro corpo. Dietro si vedono i crumiri che hanno smesso di lavorare e che sbirciano fuori. I due padroncini si rimettono a discutere con Talpa, che fa il deciso. Oggi non si lavora. Fuori tutti. Sono già venuto qui a parlare di questo problema. Se qui si lavora, si boicotta la nostra lotta per tenerci il posto di lavoro. Perché voi qui, con gli straordinari, fate il nostro lavoro della nostra fabbrica, che abbiamo occupato e boicottate la nostra lotta. I due padroncini non ne vogliono sapere. Uno guarda il pulmino dei carabinieri, fermo a una trentina di metri, e dice «Adesso chiamo i carabinieri». Talpa risponde «I carabinieri vedono benissimo quello che stiamo facendo e non intervengono perché ho parlato anche con loro e li ho informati». Mi sono assunto la responsabilità che non succederanno incidenti, ma voi dovete fare uscire gli operai. I due padroncini non ne vogliono sapere e dicono che non abbiamo il diritto di fare quello che stiamo facendo. Dietro gli operai cominciano a perdere la pazienza. Qualcuno spinge. Basta, basta, entriamo. Talpa va avanti, ancora a discutere con tutti gli operai. Dietro, che urlano. Partono le prime sassate, si sentono i vetri del capannone che si rompono. I due padroncini fanno ancora di più gli incazzati. Talpa fa finta di niente e va avanti a discutere. Io sono proprio dietro, a lui, di fianco a Cotogno e Ortica. Ho in mano una bandiera con un grosso bastone. Gli operai dietro continuano a spingere. Sento i vetri che si rompono e senza neanche pensarci su, spingo con forza il bastone contro la vetrata. Succede il finimondo. La vetrata viene giù tutta insieme, un pezzo di lastra si stacca dall'alto e cade piatto sulla testa di Talpa. Frammenti rimbalzano addosso a me e agli altri, che sono vicini. Sulla testa pelata del sindacalista si apre un taglio, che si colora subito di rosso. Cazzo, non credevo che era così fragile. Forse non era messa su bene. Uno dei due padroncini, quello che voleva chiamare carabinieri, crede che sia stato Cotogno a rompere la vetrata e gli pianta un cazzotto sul naso. Ortica scatta come una molla, alza con le due mani la bandiera e gliela cala secca sulla testa. Sento il colpo, vedo gli occhi che strabuzzano, poi le gambe gli cedono e cade giù secco. L'altro padroncino resta impietrito perché Ortica ha già alzato la bandiera un'altra volta, sopra la sua testa, però non l'abbassa. Talpa si stacca le mani dalla testa e si guarda le dita sporche di sangue, un po' inebetito. C'è un attimo di silenzio, di stupore, da parte di tutti. Il padroncino prende il suo socio sotto le ascelle e lo tira verso la parete. Dietro si spinge e si entra, tutti i crumiri scappano, uscendo dalle porte laterali. Ma nessuno li rincorre, ci si sfoga sulle cose come nella fabbrica di prima, anche di più. Tutto il materiale plastico viene rovesciato per terra. Sparsi dappertutto si rompono tutti i vetri dei finestroni. È la fabbrica dove lavoro io, questa merda, mi dice Verbena. I più incazzati, quelli che sfasciano di più, sono i giovani e le donne, ma anche gli altri sono d'accordo, perché non dicono niente, non cercano di fermarli. Quando usciamo, il pulmino dei carabinieri è sempre lì, immobile. Non sono neanche scesi. I due padroncini sono scomparsi. Il corteo si riforma e si spazzano altre fabbrichette, ma non succedono più incidenti. Il taglio sulla testa di Talpa non è profondo come sembrava in un primo momento, ma lui fa l'incazzato con noi, perché lo sa che c'eravamo noi dietro di lui quando è venuta giù la vetrata. ma non ci dice niente, fa solo l'incazzato e non ci caga. Torniamo alla mensa della fabbrica occupata e si decide di fare un volantino da distribuire in paese per spiegare quello che è successo. Lo scriviamo e facciamo girare il testo, che è approvato da tutti. Si minacciano altre spazzolate se nei prossimi giorni si verrà a sapere che continua il lavoro straordinario nelle fabbrichette dell'indotto. Poi andiamo a gruppi a distribuire il volantino per le strade, nei negozi e nei bar del paese. La luce sopra la porta è forte e mi picchia negli occhi. Per dormire mi devo voltare sulla pancia o mettermi il cuscino sulla faccia, ma non avevo sonno e così mi sono messo a pensare ai compagni, che a quest'ora si saranno tutti mobilitati per il mio arresto, staranno discutendo in sede, staranno facendo delle cose per farmi uscire da qua. Staranno parlando con l'avvocato. Mi immagino come la notizia ha fatto il giro velocemente, subito dopo il mio arresto. Telefonate, incontri, riunioni. A quest'ora già tutto il movimento saprà del mio arresto e adesso tutti si stanno organizzando per tutte le cose da fare. Quando penso ai compagni mi sento un po' meglio. Appena potrò scrivere li metterò al corrente di tutto. Sono anni che non scrivo una lettera. Provo a pensare a tutti quelli a cui devo scrivere. Sono troppi. Meglio che scrivo delle lettere collettive. Penso che dovrò scrivere anche ai miei. Me li immagino lì a casa, angosciati, preoccupati da questa storia che non potevano aspettarsi. Anch'io non me l'aspettavo, anche se qualche volta ci avevo pensato, ma mi sembrava una cosa remota, anche se possibile, e che comunque non valeva la pena starci lì a pensare. Allora è anche per questo che adesso sono così stupito e incredulo, e soprattutto così impreparato, adesso che è successo, ma i miei non se lo potevano proprio immaginare, che io potevo avere a che fare con la giustizia. Per loro io ero un marziano, un visionario, un illuso, ma innocuo, incapace di fare del male a qualcuno. Speravo che erano andati da loro i compagni per tranquillizzarli, per dargli un po' di sicurezza. Io a loro non avrei proprio saputo come scrivere, non sapevo come comunicare con loro. Lo spioncino si riapre, è il capoposto che mi fissa in silenzio. Senza parlare, passa qualche istante, io gli faccio un cenno con la testa come per domandare che c'è. Lui sta zitto ancora un po', mi chiede, non sarai mica stato tu a ammazzare il nostro maresciallo 2 mesi fa? Io rispondo che non ho mai ammazzato nessuno, che sono lì per un errore, che presto si chiarirà. Il capoposto fa la faccia sorpresa e dice che quelli come me, che lui ha visto finora, non dicono mai che non c'entrano e che non hanno fatto niente. Dicono solo che sono orgogliosi di essere dei comunisti, che lottano contro lo Stato e che sono i comuni che invece dicono sempre che sono innocenti, anche quando li hanno presi sul fatto. Resto lì imbarazzato, non vorrei avere fatto una cazzata. Ho come il senso di avere trasgredito a una norma di comportamento che devono avere i compagni in carcere. Il capoposto intanto si mette a raccontarmi che il maresciallo ammazzato era una brava persona e che aveva figli e famiglia, che quello che dicevano nel volantino quelli che l'hanno ammazzato non era vero, per niente. Dice che quello non aveva nessuna squadra di picchiatori, che non aveva mai picchiato o fatto picchiare nessuno, che era una brava persona, umana, eccetera. E continua a spiegarmi che loro sono tutti brave persone, che è un errore prendersela con loro, perché bisogna capire che loro fanno quel mestiere solo per campare, perché devono dare da mangiare alla loro famiglia. E non è colpa loro se c'è la disoccupazione, che loro sono i primi a volersene andare di lì. Se gli viene data un'altra possibilità, che loro sono venuti su dal sud, dove non c'è lavoro, e che non hanno studiato, e per questo non possono che fare quei lavori lì, ma che lo fanno con il rispetto delle persone e che non è con loro che bisogna prendersela, perché loro eseguono solo gli ordini e che sono obbligati a eseguirli, che è coi politici che noi dobbiamo prendercela, non con loro. Loro sono d'accordo che le cose così fanno schifo e che bisogna cambiarle, perché anche loro capiscono che così non si può andare avanti. ma che noi non dobbiamo sparare addosso a loro, ma a chi comanda davvero, a chi è il vero responsabile della situazione. Il capoposta va avanti così e non la smette più. Mentre continuava così, mi sembrava di sentire le stesse motivazioni, le stesse cose che dicevano i curumiri, che facevano gli straordinari, quando andavamo davanti alle fabbriche per fare i picchetti, per non farli entrare. Ma qui c'era in più l'ingenuità con cui diceva quelle cose, dove si capiva che non erano idee sue, che erano idee che aveva preso parlando con dei compagni. Erano gli argomenti rozzi della propaganda di base, le frasi fatte. E tutto questo diventavano le sue giustificazioni, ma il punto era il motivo perché mi faceva tutto questo discorso. Questo era il punto, e evidentemente me lo faceva perché aveva paura di fare la fine di quel suo collega che era stato ammazzato e voleva tenersi buono chi direttamente o indirettamente poteva costituire per lui una minaccia. Io in quel momento, per come stavano le cose, avevo con lui come un rapporto di forza in mio favore. Io allora non conoscevo proprio niente del carcere, ma cominciavo a intuire che quello era un altro mondo, con altre regole e altre logiche, che dovevo imparare il più in fretta possibile, perché lì dentro, insieme all'aria di merda, di piscio, di vomito, annusavi anche un'aria di paura, costante, di minaccia, di pericolo. Dunque era meglio essere cauti, essere prudenti, meglio un eccesso di prudenza che un errore, che poteva avere conseguenze che non mi potevo immaginare. Sentivo istintivamente il pericolo anche nel discorso del capoposto. Magari era stato mandato lì per sondarmi, per vedere che tipo ero e come la pensavo, e la cosa migliore da fare era allora non scoprirsi, rimanere nel vago, ma poi, anche volendo, cosa avrei avuto da rispondere a quel discorso del capoposto? Mi sono quindi limitato a guardarlo, che parlava, finché ha smesso, perché una guardia lo chiamava. Io speravo di non vederlo tornare, ma quello aveva lasciato aperto lo spioncino e infatti un minuto dopo si è riaffacciato. Ma prima di lasciarlo riattaccare, gli ho chiesto se poteva darmi dei fiammiferi, perché mi avevano lasciato le sigarette, ma senza fuoco. Non potevo accendere. Allora il capoposto mi dice che il regolamento vieta a quelli in isolamento di tenere fiammiferi. È già capitato che qualcuno ha dato fuori di testa e ha dato fuoco al materasso, che è di gomma piuma e brucia in un attimo, e fa un fumo che ti soffoca in pochi minuti. E se capita di notte, quando le chiavi delle celle sono in rotonda, si rischia un incendio che brucia tutti dentro le celle. Vuoi accendere, chiama le guardie, picchia sullo spioncino e loro ti fanno accendere. Visto che il capoposto era così disponibile a darmi delle informazioni, gli chiedo anche quanti giorni devo rimanere lì in isolamento. Lui si stupisce della domanda. Non sapeva quanti giorni dovevo restare in isolamento, sapeva solo che ero in isolamento giudiziario, in attesa dell'interrogatorio, e che prima di allora non potevo avere rapporti con nessuno, né all'esterno né all'interno del carcere. Non potevo salire ai raggi, né andare all'aria con altri, nemmeno con altri che erano in isolamento, come me. E non potevo avere colloqui con l'avvocato o con i parenti fino all'interrogatorio, e che siccome io ero un politico, l'isolamento era ancora più rigido. Queste erano le consegne che lui aveva ricevuto dai suoi superiori, che a loro volta le avevano ricevute dai magistrati. E come per riprendere il discorso di prima, mi fa ammiccante: vedi che non siamo noi a mettervi in queste condizioni, non le prendiamo noi queste decisioni. Hai capito chi è che le prende? Io gli chiedo quanto tempo passa in genere prima dell'interrogatorio col giudice, e lui mi dice che può arrivare fino a 40 giorni dal giorno dell'arresto. Io penso che non è passata nemmeno mezza giornata e sono già in questo stato. Non riesco nemmeno a immaginarmi 40 giorni. Il capoposto mi fa accendere e poi io, per fargli capire che non ho più voglia di parlare, gli giro le spalle e vado verso la branda. Allora lui chiude lo spioncino e se ne va. Mi sdraio e fumo piano la sigaretta, assaporando ogni boccata e senza neanche accorgermi mi addormento. Mi risveglio ancora per lo spioncino, che si apre di colpo. Una faccia grassoccia batte con una biro sulla porta e dice due volte: spesa. La guardia ha in mano un pezzo di compensato con appiccicata una lista di generi alimentari e altro. Io gli chiedo che cosa posso ordinare e lui mi dice, che ne so, un po' spazientito. Mi vengono in mente le sigarette e dell'acqua minerale e ordino quella roba lì. Lui ha in mano un modulo con il mio nome e il mio numero di matricola e scrive sigarette e acqua minerale e poi richiude lo sportello dicendo che mi porteranno la roba il giorno dopo. Io mi rimetto un po' sul letto, ma non riesco a riaddormentarmi. Allora mi alzo e picchio col palmo della mano sulla porta. Non arriva nessuno. Allora grido, guardia, guardia, 2 o 3 volte. Lo spioncino si apre e una guardia mi fa accendere con un accendino e poi richiude. Lo spioncino si apre, mi sembra per un attimo di non essere chiuso in quel buco e per un attimo mi fa sentire meglio. La sera torna il detenuto che porta il cibo, una pasta asciutta scotta, con un sigaro rosso, acido, una forchettata con la forchetta di plastica e lascio lì tutto e mi rimetto a dormire. Nella notte si sentono ogni tanto delle urla, dalle celle, intorno. Si sente gente che chiama la guardia, che non arriva. La luce è rimasta accesa e mi picchia dritta negli occhi, se sono sdraiato sulla schiena. E mentre sono sveglio, durante una conta, che è la ronda che fanno a intervalli aprendo lo spioncino, chiedo alla guardia di spegnere la luce, ma quello dice che non è possibile, che deve rimanere accesa di regolamento. La notte di dormiveglia, con quella luce forte, sempre accesa. Poi la mattina passa presto, la prima conta e poi il lavorante con il caffè latte annacquato e un pezzo di pane. Mezz'ora dopo mi aprono per l'aria. Le guardie fuori del corridoio hanno ognuna un manganello lungo in mano e con quello una mi indica la porticina in fondo al corridoio. Prima di uscire mi chiede se voglio vuotare il bugliolo, ma io dico di no. Mi fa schifo l'idea di prendere in mano quel secchio puzzolente. Mi infilo nella porticina, seguito dalle guardie coi manganelli. Passiamo in una specie di tunnel stretto e in fondo si sbuca all'aperto, in una specie di corridoio stretto tra 2 alti muri, dove passa una sola persona per volta. In fondo si apre un cortiletto di qualche metro quadrato, circondato da alti muri. Mi aprono l'ultimo cancello in fondo a sinistra e poi richiudono. Sopra c'è una grata di ferro e di lì vedo un pezzo di un braccio del carcere, con le finestre nascoste dalle bocche di lupo. Fuori da alcune bocche di lupo spuntano dei manici di scopa, collegate le antenne della televisione. Penso che quelle sono le celle dove andrò dopo l'isolamento. Non so bene che differenza c'è, ma comunque c'è la televisione. Non so da quanti anni non vedo la televisione, ma adesso ho una grande voglia di vedere la televisione. Di vedere qualsiasi cosa, delle immagini, dei suoni, qualsiasi cosa che viene da fuori di lì, qualsiasi cosa con delle facce, dei colori, delle parole. Libri ribelli. Libri ribelli.